In attesa che Berlusconi cambi ancora idea, continua la raccolta di fondi natalizia per Renato Brunetta, ormai in miseria, costretto a chiedere un prestito a una banca per pagare l'IMU.